All'apice del successo regala ai suoi tifosi anche la vittoria più attesa e inaspettata, il Giro d'Italia. L'Italia intera è con lui. Ed ecco, 49-26, l'apoteosi di Francesco Pietro, ed ecco l'urlo. Nel 1990 è Gianni Bugno a esaltare i tifosi indossando la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa. La faccio finita, è meglio sparire. Grandi campioni come Saronni, Moser, Bugno vincono e fanno sognare il mondo del ciclismo. Ma poco a poco, inesorabilmente, il Giro d'Italia sembra perdere in popolarità. I tifosi sembrano non credere più alle grandi imprese. Finché, nonostante le polemiche, i controlli notturni, le squalifiche, qualcosa cambia. Sulla scena del ciclismo mondiale irrompe un campione grandissimo. È romagnolo, si chiama Marco Pantani, per tutti, il Pirata. È un nuovo sogno, un sogno che durerà poco, ma che resterà per sempre nella storia dello sport sulle due ruote. Marco Pantani è stato soprattutto quello che ci ha fatto tornare appassionati del ciclismo. Impazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani. Pantani aveva la capacità di vincere entusiasmando i suoi tifosi, non soltanto entusiasmando tutto il pubblico del ciclismo in montagna. Attenzione, scatta Pantani. Lo scatto di Pantani. Ha fatto delle cose che nessun corridore al mondo l'ha fatte, neanche Coppi, neanche Bartali. Alessandra De Stefano, giornalista e conduttrice del Processo alla Tappa. Domani inizia il 98esimo Giro d'Italia. Che giro dobbiamo aspettarci? Ma un giro indubbiamente scintillante, un giro di quelli che si presenta intanto in una location che ha una tradizione ciclistica centenaria, perché insomma via da Sanremo, anzi da San Lorenzo a Mare, richiama un po' la storia della Milano-Sanremo, perché Sanremo è conosciuta per il festival, ma nel ciclismo è un luogo del ciclismo, nel senso che la classicissima di primavera che si è disputata anche quest'anno rinnova ogni anno la passione di quello che è il grande ciclismo che avremo modo di vedere con il Giro d'Italia. Sarà una cavalcata, perché il Giro è una cavalcata, è un'esplosione di colori, è un'esplosione di storie e di protagonisti. Ecco, i protagonisti, ma il favorito si può dire? Beh, oddio, un favorito vero non c'è. Diciamo che visto, sfruttiamo tecnicamente il luogo e il posto, parliamo del Casinò di Sanremo, che è un luogo, possiamo parlare sui quattro assi. L'asso di cuori, senz'altro direi che è Fabio Aru, perché questo ragazzo di 24 anni, che l'anno scorso ha incantato sul plan di Monte Campione, avrà tutta l'Italia a tifarlo, viene dalla Sardegna ed è un ragazzo che ama stupire, quindi farà sicuramente spettacolo. L'asso di picche potrebbe essere quello che fa saltare il banco, cioè Ricci Porte, il più in forma attualmente, quello che ha più chilometri nelle gambe e quello che ha forse l'esperienza per poter gestire meglio. I quadri li darei a Contador, perché insomma Contador è indubbiamente uno che l'ha già vinto nel 2008, viene qui con questo grande obiettivo di fare Giro e Tour, quindi chissà se ci riuscirà. I fiori li diamo a Rigoberto Urán, che è stato sul podio lo scorso anno sul secondo gradino del podio e torna qui per poter vincere. Una grande simpatia quella di Rigoberto Urán, poi dalla Riviera di Fiori, l'asso di fiori, insomma abbiamo un po' giocato con il casino. Bene, Alessandra De Stefano, tu sei una grandissima esperta di ciclismo, ma hai scritto anche un libro sull'amore nel ciclismo, sì. Ma qual è la differenza maggiore tra il ciclismo di oggi e quello di Coppi e Bartali, di cui poi noi abbiamo raccontato la storia? Ma sai, mi viene da pensare a una splendida frase che diceva Mario Soldati, diceva sport, diceva pugilato e ciclismo, sport di poveri fatti dai poveri. Era un'altra Italia quella che andava in bicicletta, la bicicletta era veramente il mezzo di locomozione più importante, avere la bicicletta, no? Se pensiamo soltanto a Madre di bicicletta, al film, al capolavoro di Vittorio De Sica, l'importanza che aveva la bicicletta, che cosa rappresentava. Se pensiamo all'immagine di Coppi che traghetta l'Italia quando vince la prima Sanremo in maglia bianchi, no? dalla nebbia della guerra al sole della Riviera, quindi era aveva un altro significato probabilmente il ciclismo rispetto a quello oggi, che oggi qual è il oggi. Significato? Ma il significato, intanto devi considerare che lo sport, il ciclismo è uno sport unico, ti viene in casa, cioè la possibilità anche di scoprire l'Italia, di scoprire i paesaggi, il borgo che non ti aspetti, la storia che non hai messo in conto, no? La bellezza del paese, quindi è ovviamente più tecnologico, se vogliamo, dal punto di vista proprio del mezzo meccanico, però è un'esperienza che si rinnova, è davvero una festa, la festa di maggio, come la chiamava Bruno Raschi, che come nel 1909 quando è partita e nel 2015 ci apprestiamo a raccontare, è un mondo a parte, cioè noi per 3 settimane vivremo soltanto, ci alimenteremo di quello che è un mondo a parte. Forse è un modo di rimanere sempre un po' bambini, di giocare, no? di non pensare e di vedere questo serpentone colorato che attraversa l'Italia. Ecco, ma una curiosità, ma come nasce la tua passione per il ciclismo? E nasce da mio padre, perché mio padre era stato prigioniero nelle Ardenne, amava molto Eddie Merckx, amava molto il ciclismo, e quindi io quando ero piccolina a 5 anni guardavo con lui il Tour de France, non ci capivo assolutamente niente, però allora le presentatrici quando presentavano la tappa ti davano anche il luogo di partenza, no? Ti dicevano, non so, oggi vedremo la tappa del Tourmalet, quindi dicevo che cosa sarà questo Tourmalet, questo nome così affascinante, e poi andavo a cercarmi puntualmente i luoghi e le località. Quindi quando nel 98 il mio allora direttore Giovanni Bruno mi chiese di scegliere tra il mondiale di calcio e il Giro d'Italia, io scelgo. Non hai avuto dubbi? No, assolutamente no. Il ciclismo ti sceglie, dico sempre così, uno sport a parte ti sceglie, puoi raccontare tutto, ma il ciclismo è il ciclismo che ti sceglie. E una volta che ti ammali di ciclismo è difficile morire.